Composizione del valore costante e variabile. Composizione del valore costante e variabile. Massa nei mezzi di produzione diviso forza lavoro impiegata. Massa nei mezzi di produzione diviso forza lavoro impiegata. Accumulazione del capitale, aumento del proletariato. Accumulazione del capitale, aumento del proletariato. Concentrazione, la ripulsione reciproca di capitali individuali. Concentrazione, la ripulsione reciproca di capitali individuali. Centralizzazione, concorrenza e credito. Centralizzazione, concorrenza e credito. Operaio sorgente d'accumulazione è causa della sua eccedenza. Operaio sorgente d'accumulazione è causa della sua eccedenza. Fluttuante, latente, stagnante. Fluttuante, latente, stagnante.